get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, eccoci di nuovo con voi. Voglio sapere chi ha il coraggio di dire che questa non è una radio dalle mille sorprese. Noi avevamo registrato la trasmissione e c'è stato registrato sopra e vai, quindi vi aspettavate una replica? Così non è, sarà una replica in diretta. Allora, buonasera a tutte, benvenute alla nostra 86esima trasmissione e oggi siamo qui io, Caterina e Annalisa, informandovi sugli avvenimenti di queste ultime settimane dal mondo lesbico, femminista ed omosessuale, con tanta musica, soprattutto di donne, anzi essenzialmente di donne. Commenteremo gli ultimi avvenimenti tragici. Vi ricordiamo che potete telefonare qui in radio allo 06 49 17 50, anche per farci i trillini che sono sempre graditi, oppure potete telefonare allo 06 68 64 201, che è il nostro centro femminista separatista, che ha sede in via San Francesco di Sales 1A al Buon Pastore, oppure potete inviarci un'email all'indirizzo clrbp@hotmail.com per inviarci tutti i commenti sugli avvenimenti di qualsiasi genere o per raccontarci di voi o di come trascorrete le vostre vacanze. Insomma, fateci sentire che ci siete e siete soprattutto lì ad ascoltarci. Scusate la disorganizzazione, adesso manderemo una canzone, prenderemo guadagnando un po' di tempo cercando di riordinare tutti i fogli della settimana scorsa. Scusate gli inconvenienti, ma noi siamo originali. Sempre per cercare di fare la trasmissione come la settimana scorsa, riascoltiamo di nuovo Yalla Chant della cantante Natasha Atlas, tratto dal CD Women's in World Voices 2. E noi ci abbiamo pensato bene, proprio per sempre, per essere particolarmente originali, un brano che aveva letto la settimana scorsa Annalisa, questa volta lo leggerò io. Era, se ricordate, il contributo che ci aveva mandato Deborah sul G8, dal titolo Noi e Genova nel G8. Nonostante sia trascorso diverso tempo, crediamo non si sappia ancora tutto quello che è successo nelle piazze, nelle caserme e nelle strade che una volta erano di Genova, ma che in questi casi vengono semplicemente chiamate del G8. Probabilmente non sapremo mai tutto ed i motivi o forse gli ordini che hanno portato le forze di polizia ad aggredire anche donne e uomini inermi, e resteranno uno dei tanti misteri di Stato che ormai costellano con infamia la storia del nostro paese. Quello che è certo è che nelle coscienze dei movimenti sociali italiani ci sarà un prima e un dopo il G8. Questo inutile e pomposo incontro tra 8 persone, punte di ben più radicati iceberg economici che tirano le fila del mondo, resterà per noi un sanguinoso spartiacque, ma attenzione, non tra la democrazia e lo Stato militare, bensì più sottilmente tra la tolleranza del lasciamoli manifestare tanto il potere del non cambiamento in mano nostra e l'intolleranza esplicita e violenta nei confronti dei pensieri antagonisti. Il plurale qui è obbligatorio perché noi, come lesbiche e come donne, non crediamo all'esistenza di un unico pensiero antagonista vagamente sinistroide. Crediamo invece che forze sociali, anche fortemente diverse e, badate bene, spesso culturalmente contrapposte come cattolici, lesbici, centri sociali e tutti gli altri movimenti che hanno aderito al Genova Social Forum, possano temporaneamente unirsi contro la conseguenza logica della politica economica svolta in un più o meno tacito accordo delle grandi potenze occidentali dopo la Seconda Guerra Mondiale. La globalizzazione, il più grande ed organizzato tentativo di giustificazione culturale ed economica dello sfruttamento di pochi nei confronti di molti. Come accade da un po' di anni a questa parte, le notizie più sconvolgenti in termini di violenza e sopraffazione su quanto è successo durante il G8 vengono veicolate più da internet che dai giornali e dalla televisione, imbalsamate ora più che mai dal clima berlusconiano, ovvero dai timori e dai cambiamenti di poltrone importanti che conseguono alla presa del potere da parte delle destre. Le descrizioni della violenza inaudita delle forze della polizia contenute nelle email di resoconto di chi a Genova c'è stato ci fanno letteralmente accapponare la pelle, ed oggi riuscirebbe difficile anche a Pasolini soffermarsi a pensare che sotto le divise battono i cuori simili a chi era in piazza a protestare pacificamente. Non siamo a Villa Giulia di 30 anni fa. Ma è da quegli stessi resoconti che dobbiamo trarre il coraggio di sottolineare che forse i cuori no, ma le menti sotto le divise somigliano troppo a quelle menti sotto i vestiti neri, ed il nero non è mai un colore di sinistra, che hanno letteralmente spaccato Genova e qualsiasi cosa fosse a tiro. Sarà parte del mistero il se e quanti di questi nerboruti fossero d'accordo più con le solite forze di potere occulte italiane che con i manifestanti. In ogni caso, nascondersi sotto un casco della celere o sotto un passamontagna porta alla medesima cosa, violenza. Non può esserci un buon motivo per esercitare violenza. La storia ci ha insegnato che presto o tardi la violenza diventa indiscriminata perché ha come suo elemento intrinseco la sopraffazione di individui più deboli, a prescindere dal fatto che lo siano per pochi minuti o per tutta la vita. E a volte questo vuol dire la morte di un ragazzo di 20 anni che sta per lanciare un estintore contro un altro ragazzo di 20 anni. sigla che state ascoltando è Carmen Consoli con la canzone Eco di Sirene. E dunque l'estate è finita. Ma a voi com'è andata? A me bene, benissimo. Mi sono trattata come meglio non si può. A luglio sono stata a Lesbo e ho conosciuto tantissime donne. Poi, tempo fa, sono stata a Nerano per il weekend di sole donne organizzato dall'Arcilesbica. Mi sono divertita veramente tanto, ma l'esperienza più bella che mi porterò dentro quest'anno è stata sicuramente la masseria. È stato infatti il primo anno che sono riuscita ad andarci. Ho voluto fare queste esperienze di cui mi avevano sempre parlato le mie amiche in maniera entusiasmante. E devo dire che non sono stata affatto delusa. Le Desiderande, lo ricordo, è un'associazione lesbica nata nel 92 a Bari, che ha lo scopo di promuovere momenti di conoscenze, scambio fra gruppi e singole, per favorire l'instaurarsi di relazioni personali. Le donne che fanno parte delle Desiderande già le conoscevo, alcune meglio, alcune meno, ma vi assicuro che sono tutte donne fantastiche. Organizzano da 7 anni questa vacanza con la stessa passione, con la stessa creatività e fantasia, ma soprattutto con lo stesso entusiasmo e voglia di divertirsi che si sente in ogni momento della giornata. Quest'anno il programma è stato ricchissimo di spettacoli. Hanno cominciato l'Estriare con uno spettacolo di musica popolare salentina, con tutte noi a cercare di mettere a frutto lo stage pomeridiano sulla danza popolare salentina. Poi è stata la volta delle Desiderande con il musical Hotel Lesbienne, volto ad introdurre il progetto a cui stanno pensando le Desiderande, e cioè un lesbizio per lesbiche che scelgono di vivere tutte assieme, anche assistite da personale specializzato se necessario. Poi è stata la volta del balletto delle Lesbis Girl, già portato in giro anche a Milano, sul ruolo tra butch e femme delle lesbiche, che poi si sa che è un ruolo più costruito che reale. Sabato il gran finale con lo spettacolo di cabaret delle spaventapassere.com, che è un gruppo di 3 ragazze di Torino, bravissime, che hanno letteralmente mandato in delirio le donne della masseria con le loro battute e la loro simpatia naturale. E poi ci sono state come al solito le lesbiadi, curate nei minimi particolari, in cui si gioca e ci si ammazza da ridere, con le partecipanti più accanite che mai, compresa la sottoscritta, nonostante durante le iscrizioni ci si dica vabbè, giusto per partecipare. Cosa mi rimarrà? Io non dimenticherò mai tutta l'atmosfera respirata, l'assoluta libertà di noi tutte, in un posto tutto nostro, con donne sempre sorridenti e felici di poter stare assieme senza condizionamenti esterni. Andare al mare, gustare delle cene buonissime preparate da Lorena, che è una cuoca veramente eccezionale, ballare fino all'alba, giocare a carte, giocare a ping pong, cantare, starsene a chiacchierare per ore con una birra, forse anche più di una, per poi essere sorprese da un piatto di spaghetti alle 5 del mattino. E non stancarsi mai, sperare che quei 7 giorni passino lentamente per poter respirare tutta l'energia di quelle donne, di quei luoghi. È difficile per me spiegare la masseria. Credo che tutte le donne, tutte le lesbiche come me, debbano fare un'esperienza simile. So solo che già mi manca, che l'anno prossimo io non mancherò. Per chi volesse avere informazioni sulla prossima edizione, ammesso che si siano riprese, si può visitare il sito spazioweb.inwind.it/masseria_desiderande a e finale, oppure se volete scrivere un'email potete scrivere a desiderande@hotmail.com. E pensando alle emozioni provate e a come sia bello vedere tante belle donne ridere, mi viene in mente questa canzone di Teresa Desio che si chiama appunto Ridere, che dedico a chi mi ha regalato questa estate indimenticabile, e quindi a tutte le Desiderande, e quindi a Giulia, ad Elena, a Francesca, a Rosi, a Teresa, a Pina, a Vinci, Serenella, Valeria, Anita, Rosa, Antonella e a tutte le bellissime collaboratrici, perché non ci manchi mai di ridere. Rido del tempo che passa, rido del vento che si ferma a giocare, ma gira le pagine di questo nostro andare. Rido per terra e io rido per mare, rido del ridere che lascia senza fiato, che non ha prezzo, non ha misura, non ha mercato. Rido del ridere che scioglie i temporali, e ridere insieme sai, rende i nemici uguali. Rido del ridere che vince ogni guerra, che non ha casa, non ha me, che nella notte barcolla sul mio ubriaco ed è via di scampo Gli appuntamenti. Per quanto riguarda gli appuntamenti, partiamo con le iniziative del circolo lesbico Drasticamente di Padova per il mese di ottobre. Cominciamo chiaramente da mercoledì 17. C'è un corso di autodifesa dalle 19 e a seguire un film inedito, La lettera d'amore, a partire dalle 21. Martedì 23, in collaborazione con il gruppo Donne Gaie del Circolo Pink di Verona, incontro con Letizia Tommasone, pastora valdese di Verona. L'iniziativa si terrà a Verona, partenza da Pordenone con, da Padova con alle ore 20, sì. Ripeto, l'iniziativa si terrà a Verona e si partirà da Padova alle 20. Mercoledì 24, di nuovo un corso di autodifesa alle 19 e un corso per la linea lesbica amica, presentazione del video sul survey sex tra donne lesbiche. Mercoledì 31, corso di autodifesa dalle 19 più l'assemblea generale. Il circolo lesbico Drasticamente si riunisce tutti i mercoledì dalle 21 alle 23. Per chi ne volesse sapere di più sull'associazione o sui corsi, invii un'email a drasticamente@hotmail.com oppure consulti il sito www.woman.it/drasticamente oppure può chiamare lo 049 77 5699 il mercoledì dalle 21 in poi, oppure può andare in via Gradenico 8 a Padova. Ricordiamo che il circolo offre anche consulenza legale, psicologica gratuita e possiede una discreta biblioteca e videoteca. Mi sono persa per strada, non trovavo più il foglietto con quest'altro appuntamento. Dunque, sabato 27 ottobre si terranno feste per donne organizzate dal Clit Club presso il Disco Club Joel a Cittadella in via Paggiola 7 dalle 23 in poi. Per informazioni potete scrivere all'indirizzo di email arcibetta@hotmail.com. Ci volete fare, questa sera è andata così all'insegna della disorganizzazione. Un'altra notizia: il Circolo Pink di Verona organizza una rassegna di film gay e lesbici recenti che non hanno raggiunto però la grande distribuzione. Le proiezioni avranno luogo ogni lunedì dal 17 settembre al 29 ottobre presso Pink, centro di iniziativa gay e lesbica, via dei Scrimiari 7 a Verona. Verona. Per ulteriori informazioni il telefono è 045 80 65 911. E alla Biennale di Venezia, che si chiuderà il 4 novembre, sono in mostra nelle varie sedi le artiste Marisa Merz ed Eva Marisaldi, Padiglione Italia, poi Vanessa Beecroft, Teste delle Vergini, Minette Vari e Priscilla Monge alle Corderie e Tania Brughera all'Isolotto. E questa è una notizia che diamo, anche se si svolgerà ad aprile, ma se ascolterete il luogo dove si svolgerà capirete che noi ve lo diciamo con largo anticipo perché voi vi possiate organizzare. Allora, il Wild Wild West Lest Fest si svolgerà dal 10 al 17 aprile a Perth in Australia. Ostello e campeggio a pochi metri dalla spiaggia, ristorante vegetariano e possibilità di cucinare in spazi comuni. Il programma comprende concerti e teatro alla sera, racconti attorno al fuoco di notte, mercatino di giorno, giochi delle Amazzoni, yoga, corsi di danza e workshop proposti dalle partecipanti. Vorremmo incoraggiare le lesbiche nate donne ad unirsi a noi per un tempo in cui vivere ed imparare insieme e condividere la vita con native e non inglesi, disabili, donne anziane e giovani, lavoratrici e studenti. Per informazioni potete chiamare Andrea 08 93 14 31 83 oppure Pat 08 93 31 71 36 oppure Les Fest Collective 73, Hines RD 6163, Hilton UA Australia. E nella trasmissione della settimana scorsa noi avevamo letto un comunicato che c'era arrivato dal RAWA, stiamo facendo di tutto per recuperarlo via internet, speriamo sia possibile perché era molto interessante, soprattutto adesso che c'è stata l'inizio della guerra voluta dagli americani. E se non ci riusciamo questa sera lo rimanderemo in onda sicuramente martedì prossimo. E visto che il tempo a nostra disposizione per permettere a tutti coloro che ci stanno registrando sta quasi per terminare, mandiamo l'ultima canzone di Anastasia, che a me piace in modo particolare, e ve la dedico scusandoci ancora una volta per tutti gli inconvenienti di quest'oggi, d'accordo?